si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati con l'altra cronaca su Radio 24. Se vi sentite depressi dopo una settimana di cattive notizie sulla crisi e quant'altro, seguiteci perché vi racconteremo altre storie. Subito qualche notizia per entrare nel clima. Andiamo in Emilia-Romagna perché sul fronte dei costi della politica si fanno dei piccoli passi in avanti. Lo so, è difficile scovare queste notizie tra il mare magnum di cose agghiaccianti che si leggono sui giornali, però cosa succede? Il Consiglio delle Autonomie Locali di questa regione ha approvato il piano di ridisegno delle province. Sappiamo che c'è entro la fine dell'anno una scadenza, tutte le regioni devono approvare questo piano. In Emilia-Romagna è stato fatto, quindi le province accorpate saranno Parma e Piacenza, Reggio e Modena, poi ci sarà la provincia di Bologna, quella di Ferrara ed un'unica provincia romagnola. Quindi insomma qualche cosa piano piano si sta facendo, staremo a vedere se tutto questo approderà poi al così tanto atteso accorpamento delle province. La prossima notizia arriva da Bari. Un'idea non nuova per risolvere un problema non nuovo. Speriamo che questa sia la volta giusta. L'idea che arriva da Bari è lo svuota carceri. Si chiama Reinclusione, un progetto presentato dai Cugini Signorile. È un percorso che nasce da un campo, Ital Camp, qualche giorno fa, indetto gli Stati Generali del Mezzogiorno in Europa, selezionando i migliori progetti italiani. Bene, c'è anche questo. Cosa succede? Succede che i beneficiari di queste misure alternative al carcere saranno selezionati, osservati per un anno e in seguito alla detenzione, almeno un terzo della loro pena, potranno passare il resto della pena lavorando, ottenendo però uno stipendio pari a un quinto di quello che è il contratto nazionale. Sembra complicato, ma non è così, si tratta semplicemente di una misura alternativa al carcere, per svuotare le carceri che sono strapiene e per fare lavori di utilità nelle amministrazioni pubbliche. L'ultima notizia arriva da Arezzo, sostegno alla natalità per i neonati, in particolare nel comune di Civitella in Val di Chiana. Ebbene, c'è un kit per i neonati e poi un assegno di maternità per le mamme che non hanno alcun trattamento economico. Queste sono alcune delle notizie di oggi. Noi aspettiamo le vostre o i commenti a quelle che sentite nel programma sulla nostra pagina Facebook, si può fare trattino Radio 24. E poi non dimenticate, durante la settimana, la nostra segreteria telefonica 800 28 12 12. Per risparmiare bisognerebbe fare il conferimento degli immobili di pregio dello Stato al fondo, come è già stato proposto, e poi bilanci anche per i sindacati, come per i partiti, i gruppi consiliari e tutti quanti. Volevo dire che non bisogna inquisire chi si è appropriato indebitamente di soldi, bisogna inquisire quelli che hanno fatto questi regolamenti. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 800 28 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Vorrei un posto per me, anche se non c'è. C'è mai perché un posto che mi prende, mi toglie il male di vivere. Posto per me, dice Andrea Nardinocchi, è un posto per loro, forse potranno trovarlo i cittadini e le associazioni che aderiranno al bando che a breve il Comune di Milano metterà a disposizione per tutti per poter riutilizzare, ed è questa la notizia, gli spazi abbandonati in tutti i quartieri di questa grande città, nella quale tra l'altro io vivo, ma insomma questo non c'entra nulla, perché la notizia è di qualche giorno fa. Il Comune comune ha approvato una delibera che prevede proprio questo: recuperare gli spazi edilizi abbandonati in città che non servono più a nulla e andranno a buon fine. Cerchiamo di capire come, salutando Lucia Castellano, che è assessore al demanio del comune di Milano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E allora, quando sarà, prima di tutto, le voglio chiedere questo, il bando, poi ci spiegherà tutto per bene come funziona per chi vuole, per le associazioni, per i cittadini. Sì, allora ci saranno dei bandi, non uno, nel tempo ci vuole qualche mese per prepararli perché saranno più di uno. Allora, alcuni riguarderanno gli spazi inutilizzati da recuperare, quelli che sono, per capirci, molto degradati, in periferia, molto grandi, che hanno un dehor e un interno, e quegli spazi che sono molto costosi per noi da recuperare, e li daremo ad associazioni senza scopo di lucro, a Onlus, a cooperative sociali, a fondazioni, a enti pubblici o privati aventi sede nel comune di Milano. Ci saranno, ecco, la novità è che si passa un po' dal soggetto al progetto, cioè noi vorremmo una proposta progettuale di riutilizzo in coerenza con le finalità dell'amministrazione comunale, un progetto di ristrutturazione dell'immobile e un piano economico finanziario. Quindi significa che noi lo diamo, anche in comodato gratuito, con oneri di ristrutturazione a carico dell'associazione. La cosa interessante è che ci si potrà costituire in associazione anche nella prospettiva di ottenere questo immobile. Ecco, quali sono i criteri per queste associazioni? Chi avrà la patente in regola per poter aderire? Siamo molto elastici su questo. Sì. Le ripeto, associazioni senza scopo di lucro, enti o aziende pubbliche e private, onlus, cooperative sociali, fondazioni, tutti, nessuno viene escluso. Sì. Mentre prima noi avevamo un regolamento abbastanza severo, che selezionava le associazioni, quelle più nate e viventi da più tempo. Invece adesso le diamo a tutte, ci si può anche costituire proprio per partecipare al bando. Quello che ci interessa, sì, non è tanto il soggetto quanto il progetto. Certo. Cioè la qualità della proposta progettuale in coerenza con le finalità dell'amministrazione, cioè bisogna fare anche qualcosa per la città. Ecco, voi siete fiduciosi che arriveranno, per esempio, dei progetti, perché questo è importante, insomma, attivare, sì, quanti sono gli spazi, sì, che poi mettete... Aspetta, questo vi ho detto soltanto, sì, la prima parte. Ah, mi scusi, sì, sì, prego. Gli spazi destinati alla realizzazione di progetti specifici da parte di associazioni senza fini di lucro, cioè viceversa un'associazione che già ha un progetto, sì, e che mi chiede uno spazio. Ok. E poi ci sono spazi destinati alla realizzazione di progetti per lo sviluppo della nuova imprenditoria o per progetti aventi finalità sociali. Quindi è assolutamente diversificato. Il quarto macrosistema è invece lo spazio nel contesto di edilizia residenziale pubblica. Che cosa significa? Che i quartieri popolari hanno tutti spazietti, che sono i cosiddetti negozi di prossimità, i negozi, sì, che sono vicini, sotto, non so se lei ha mai visto, nei quartieri popolari di Milano. Sì. Succede anche in molte altre città, ci sono degli spazi al piano terra, sì, spesso, esatto, inutilizzati. Ecco, piano terra. E questi spazi, se dati così con bandi uno per uno, rischiano di restare vuoti o di essere presi da associazioni che magari si fanno le attività un paio di volte alla settimana e c'è sempre la clera abbassata. Se invece diventano oggetto di una progettazione comune che li coinvolge tutti per attività diversificate, noi andiamo a far rivivere il quartiere. Quindi ecco, sono quattro macrosistemi per cui le persone, le associazioni, gli enti possono proporre quello che più corrisponde ai loro bisogni. Nella prospettiva, sì, però, che il progetto sarà valutato secondo l'interesse della città. Certo. Senta, farete una campagna anche di informazione, di pubblicità importante, perché spesso iniziative come queste che richiedono la partecipazione anche attiva dei cittadini, delle associazioni, iniziative molto importanti per rivitalizzare interi quartieri, ecco, però richiedono questa partecipazione attiva. Non c'è il rischio che si resti a mezza strada, non per colpa del comune che l'iniziativa la propone e la lancia, ma per colpa di chi magari non è informato, non sa come partecipare, non sa come aderire al bando. Quindi avete pensato anche a questo aspetto? Sì, noi faremo una campagna di informazione, adesso ci organizziamo per far partire i primi bandi, soprattutto per quelli che noi chiamiamo i mammut, cioè questi enormi edifici disabitati, diroccati, che cominceremo a mettere a bando chiaramente con un piano della comunicazione efficace. Useremo i social network, useremo un po' di strade di comunicazione diversificate, anche questa che stiamo utilizzando oggi, di cui la ringrazio. Siamo utili a qualcosa. E poi, sì? Quando partiranno i singoli bandi nei quartieri popolari, eccetera, certo che lo comunicheremo. Eccoci ritrovati insieme all'assessore Lucia Castellano, assessore al demanio del Comune di Milano, un progetto, un'iniziativa che è su questa scala, non oso definire in qualche modo rivoluzionario, cioè la messa a bando di un sacco di spazi dell'edilizia pubblica abbandonati. Ci sono molti quartieri che potranno riprendere vita, e la domanda però all'assessore era questa: come mai mentre tutti pensano di fare cassa vendendo, invece voi avete pensato di fare qualcosa di diverso con questi beni pubblici? Non si vive di sola cassa, assessore? Non direi che abbiamo pensato, invece noi abbiamo pensato anche a questo, cioè valorizzazione non significa solo far cassa. Con alcuni immobili si può far cassa, sia con le rendite degli affitti che con le alienazioni. Sto pensando per esempio alla galleria, quella la stiamo mettendo a reddito cercando di far cassa eliminando, abbiamo mobilitato tutte le associazioni che erano sui piani alti della galleria, quelle associazioni sono andate nel palazzo delle associazioni altrove e stiamo cercando di affittare a prezzi degni della galleria quegli spazi. Questo significa far cassa, tra virgolette. È chiaro che quando l'immobile è in periferia, è degradato, è inutilizzato, eccetera eccetera, si può far cassa, tra virgolette, cioè valorizzarlo come bene per la città, invitando la città a fare dei progetti, che è una cosa che la città ci chiede, sì. Perché crea sviluppo, perché crea economia, perché dà sviluppo e dà lavoro ai giovani, eccetera. Se io prendo uno di questi mammut e li do per un concorso di progetti e viene fuori, non so, un pub, un ristorante, un circolo ricreativo, un circolo culturale, e lo do incomodato gratuito per 30 anni, in cambio me lo fanno vivere, quello è una messa a reddito, anche se non è monetizzabile. Assessore, è chiaro che non è l'unica politica immobiliare, sì? Che facciamo. Certo, no, ma è su poi questo c'è un piano che... vendite evidente di altro. Sì, però. No, ma è un fatto positivo anche che non si pensi solo a vendere, ma anche a rivitalizzare, e come diceva lei, rivitalizzare porta anche un indotto degli introiti, certo, economici, occupazione e quant'altro. Ci dia un ulteriore messaggio di ottimismo sui tempi, se è possibile. Guardi, nei prossimi 6 mesi, per parlarvi, faremo partire i primi bandi. Benissimo, allora torneremo a contattarvi sicuramente e vedremo come è andata a finire. Grazie per ora. Arrivederci. Buon lavoro, buona giornata. Sento il lamento del filamento, dolente domanda di essere spento, mentre mi illumina l'appartamento, morendo lento, incandescente. Mi rendo conto in questo momento che di watt lì dentro ne bruciano 100. Con 10 fa luce, felice e contento, con gli altri 90 fa riscaldamento. Povera pera che bruci lentamente nella mia sera e mi illumini. Povero tortiglione che ardi lentamente come un covone. Illuminami meno che mi illumino di meno, e se mi illumini di meno io risparmio. Illuminami meno che mi illumino di meno, e se mi illumino di meno sarò salvo. Illuminami meno che mi illumino di meno, e se mi illumini di meno io risparmio. Illuminami meno che mi illumino di meno, e se mi illumino di meno sarò salvo. Se tu rumori Mi illumino di meno perché la prossima notizia, il prossimo approfondimento ha a che fare con il risparmio energetico, ma non solo, è anche un caso di eccellenza tutto italiano, perché è italiana la casa sostenibile che vince alcuni premi, adesso vedremo quali, a Solar Decathlon 2012, in pratica le Olimpiadi dell'architettura a Madrid. E allora ne parliamo con Gabriele Bellingeri, buongiorno. Salve. Construction Manager di Team Med in Italy, Solar Decathlon Europa 2012. Insomma, la sigla è un po' lunga. Voi siete il Team Med in Italy, scritto con la E. Esatto. Prima di tutto. Esatto. Med come Mediterraneo. Come Mediterraneo, però anche come made, cioè fatto in Italia, perché sì, è un progetto italiano, coinvolge diverse partnership anche con alcune università. Esattamente ci dica in che cosa consiste il progetto, che io ho spiegato in maniera maldestra, e qual è perché avete vinto questo premio. Il progetto è un progetto che concorre a un premio internazionale, è una gara fra università. Si tratta di progettare quelle che potrebbero essere le case del futuro. Questo esercizio, diciamo così, noi lo abbiamo preso orientandoci verso la casa mediterranea. Le case ad alta efficienza che siamo abituati a vedere, a sapere, a conoscere, sono progettate per i climi freddi, sono state progettate dai nostri colleghi del nord, danesi, norvegesi. Cioè più che altro per proteggerci dal freddo e quindi per trattenere il caldo. Voi invece avete ovviamente un punto di vista un po' diverso, no? Opposto. Esatto, esatto. Noi abbiamo mirato a pensare ad una casa ad alta efficienza per i climi caldi. Non è banale, perché da un certo punto di vista è più facile lavorare sul clima freddo, perché c'è un problema solo da risolvere. Per i climi caldi invece i problemi sono due: bisogna avere una casa un po' reversibile, no? Che funzioni bene in un clima, nel clima invernale, ma che poi sia altrettanto efficiente e confortevole nel clima estivo. E i motivi per cui il vostro progetto è stato premiato tra i tanti, quali sono? Cioè, entriamo nello specifico anche dei materiali che, per esempio, che vengono riutilizzati, del tipo di risparmio che si riesce a ottenere grazie a questi, che sono dei prototipi, poi immagino, poi ci spiegherà anche su che scala sarebbero e saranno utilizzabili dai cittadini. Diciamo che molto noi abbiamo puntato, per quanto riguarda il discorso della sostenibilità, sul fatto che queste costruzioni devono essere costruzioni che comunque consumino poca energia sempre, cioè non solamente nella fase di esercizio, ma anche nella fase di costruzione, quindi utilizzare materiali che crescano, non materiali di cava, non materiali che impoveriscono il pianeta, sì, ma materiali che siano assolutamente rinnovabili. Per esempio? Per esempio il legno. Mm. Diciamo che buona parte della costruzione è fatta di legno la struttura, è fatta di legno l'isolante e lana di legno, in alternativa in alcune parti potremmo usare cellulosa riciclata dalla carta di giornale, ma noi abbiamo posto attenzione anche al trasporto. Noi sappiamo che le case che funzionano bene nei climi caldi sono case pesanti, le case di pietra, le case di mattoni, eccetera. Però trasportare questo materiale è sicuramente molto costoso. E allora abbiamo pensato a una casa che fosse molto leggera al trasporto, quindi una casa, diciamo così, vuota, con delle parti vuote, che poi diventasse pesante una volta in esercizio, semplicemente riempiendo alcune intercapedini di sabbia. Sabbia che naturalmente non viaggia, viene trovata reperita in loco. Senta, ma è chiaro che vorremmo tutti avere una casa così, no? Se pensiamo all'estate che è appena trascorsa, una casa un pochino più fresca, dove non si spende e non si usa il condizionatore d'aria, per esempio, bisognerebbe radere al suolo questi vecchi ruderi, questi vecchi mammut, qualcuno li definisce, di cemento, che scaldano dentro e fuori nelle città. Però poi per comprarsi una casa come la vostra quanto costa? Cioè, nel senso, esistono dei prototipi? Quanto potrebbe costare una casa così? Diciamo che Un altro degli obiettivi che ci prefiggevamo era di fare una cosa economica. Non ha senso tentare di incidere sul mercato edilizio, sul settore edilizio, che è un settore terribilmente energivoro. Non so se tutti ci hanno sempre ben presente che le case consumano il 40% dell'energia nel globo, il 40% è utilizzato per la gestione delle costruzioni, più che i trasporti, insomma, tanto per dire. Certo, quindi ce n'è di strada da fare su questo fronte. Questa casa l'obiettivo è che costasse poco, perché potesse essere una tipologia costruttiva che possa diffondersi. Se noi facciamo una cosa anche molto sofisticata, che funziona benissimo, ma molto molto costosa, non ha tanto senso. Ma e quindi non si vuole sbilanciare? No, diciamo che i conti che noi abbiamo fatto stanno intorno ai 1.200 euro a metro quadro. Beh, quindi insomma meno dell'edilizia tradizionale. Insomma, è un progetto interessante, complesso. Tra l'altro noi di Radio 24, anche in trasmissioni come L'Altro Pianeta, più attente proprio alle questioni dell'ambiente, abbiamo seguito. L'ultima cosa, 30 secondi, le voglio chiedere, prima di salutarla. L'Italia vince così un premio, un riconoscimento, un caso d'eccellenza italiano, ma l'immagine che noi abbiamo, lei viene da Madrid, all'estero, è quella di un paese consapevole di queste problematiche sul tema delle tecnologie sostenibili o il vostro è un caso isolato? Uno dei motivi per cui ci siamo messi a fare questa cosa, ci siamo messi in questa impresa faticosissima che ci ha dato soddisfazioni ma anche ci ha stancato terribilmente, il fatto di riuscire a smuovere il nostro paese riguardo a questo obiettivo, a questo discorso, a fare conoscere agli italiani il fatto che si può avere alta efficienza in edilizia a posti assolutamente ragionevoli. Benissimo, allora speriamo, grazie intanto per essere stato con noi. Io la ringrazio, Gabriele Bellingeri, buon lavoro e vedremo il prototipo che futuro avrà. Grazie. Sì, arrivederci. E adesso la notizia si può fare dal mondo che vince il premio della settimana. And the winner is... Il premio di questa settimana va in Brasile, al Ministero della Sicurezza Sociale di San Paolo, che per la prima volta nella storia ha deciso di concedere il sussidio di maternità a un uomo. Si tratta di un padre omosessuale che ha adottato un bambino assieme al suo compagno, ma che inaspettatamente è rimasto senza lavoro. In Brasile le coppie omosessuali sono riconosciute legalmente dal 2011, ma un caso del genere non si era mai verificato prima. Gli oppositori hanno mosso vibranti proteste perché, secondo la legge, il sussidio sarebbe destinato a una beneficiaria e non a un beneficiario. Ma al Ministero hanno pensato che un diritto non potesse dipendere dalla semantica. Tanto più che in tutti i casi il vero beneficiario, o beneficiaria che dir si voglia, non sarebbe stata la mamma, ma il bambino. Il Brasile è un paese ancora in via di sviluppo sotto tanti punti di vista. Stavolta però, dal punto di vista sociale, può dare una lezione al mondo. Questa piccola storia che viene da San Paolo diventa un simbolo. È la dimostrazione che, anche di fronte ai cavilli e alle regole rigide della burocrazia, far prevalere il buonsenso si può fare. Eccoci qua, ben ritrovati. Si può fare l'appuntamento della domenica senza l'intervento degli ascoltatori, una puntata sempre dedicata alle nostre storie e noi aspettiamo i commenti alle storie che sono andate in onda o anche le vostre buone notizie della settimana sul pagina Facebook, si può fare trattino Radio 24 e poi alla nostra segreteria telefonica 800 28 12 12 lasciate la vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Adesso è arrivato il momento delle nostre previsioni economiche per il futuro, possibilmente positive. Avviso ai naviganti. Si avvisano i signori naviganti a vela e motore che fossero bloccati in acque stagnanti o infestate di squali che le turbolenze degli ultimi tempi provocati da una zona di alta pressione fiscale verranno presto mitigate da un'insolita ondata di solidarietà e fantasia che porterà credito ed equità su tutta la penisola. Almeno speriamo. Il mio nome è Lorenzo, potrebbe non aver senso, ma da quando sono nato dico quello che penso, dico quello che vedo, mi guardo in giro, utilizzo questo ritmo nero, funky, duro e carico di bassi, e su di lui ho costruito sintassi e frasi e storie e strada dove vivo. Muovi la mano con la quale io scrivo e dammi la carica, dammi l'energia, molta cattiveria, poca melodia. 1, 2, 3, via! 1, 2, 3, via! Questa non vuole essere una forma di poesia, ma è rap, semplicemente senza pretese. Un suono è una parola che arriva palese, si muove, non c'è discussione. Non è la musica che fa la rivoluzione, al massimo può essere la colonna sonora, un modo per accendere un passaparola. Il microfono si accende e va sull'adrenalina. Tacca, tacca, tacca, tacca, taccami la spina. Taccami la spina, dice Jovanotti in questa sua vecchia canzone, perché l'avviso ai naviganti di oggi, cioè i nostri consigli per una conduzione della vita economica di cittadini e imprese, possibilmente verso un futuro migliore, hanno a che fare con la spina. La notizia l'abbiamo trovata sul sito ilcambiamento.it, un bel sito che dà spazio a tutto quanto si muove nel mondo della sostenibilità e anche così delle buone pratiche. Il titolo è questo: quando la spesa diventa alla spina, un borgo etico a Cesena. Leggiamo: acquistare prodotti sfusi, riutilizzando lo stesso contenitore, risparmiando quindi in denaro e abbassando l'impatto sull'ambiente, sembra essere questa una delle tendenze emergenti tra i consumatori più responsabili. Più che un ritorno al passato, un'esigenza del presente. La notizia ci porta a Cesena, dove la cooperativa Borgo Etico sta per aprire un nuovo punto vendita proprio con questo concetto della vendita alla spina. Ne parliamo con Barbara Martini. Buongiorno. Buongiorno. Che è presidente dell'associazione Borgo Etico. Allora, appunto, io ho descritto un po' il contesto, l'abbiamo voluto introdurre così come avviso ai naviganti: si può risparmiare venendo a fare la spesa in questi punti vendita. Adesso ci dirà quanto. Perché si può risparmiare, per esempio? Si può risparmiare su dei prodotti di alta e altissima qualità, perché riducendo lo spreco dei contenitori, anche lo spreco di quantitativi spesso non utilizzati, come i famosi 3x2, 3x4, si può comprare solo la quantità necessaria per prodotti di altissima qualità, quindi evitando l'imballaggio, evitando anche lo spreco. Per esempio, perché... che tipo di prodotti? Prodotti alimentari, dalla pasta ai legumi, alla frutta secca, l'acqua, il vino, l'olio, il latte, anche persino lo yogurt e i detergenti, uh-huh, ovviamente. Quindi una vastissima gamma di prodotti. Ecco, nell'articolo si indicavano delle forbici, diciamo, di possibile risparmio. Sa, siamo un po' fissati su questa cosa del risparmio di questi tempi. Se riusciamo a dare qualche buona notizia, magari è un incentivo a Cesena poi per venire nel vostro negozio. Poi ci dirà quando aprite tutto quello che si troverà dentro. Qua, c'è una stima di quanto si risparmia mediamente a fare la spesa in un negozio come questo, tenendo conto che lei parlava di prodotti comunque di qualità? Sì, esatto. La stima può andare da un 10 a un 30%, però ecco, su un prodotto a filiera corta, sì, di altissima qualità, con un controllo all'origine dal produttore. Quindi sono tutti produttori che noi conosciamo e che valutiamo e che in qualche modo controlliamo anche periodicamente, che conosciamo direttamente, che ci mettono la faccia. Quindi la comparazione è su un prodotto di alta qualità. A che punto siete con la preparazione, con l'allestimento? Quando dovrebbe debuttare il negozio? Allora, in realtà il nostro è un servizio, è un progetto di sensibilizzazione all'acquisto consapevole e responsabile. Sì. Infatti si chiama Borgo Etico Prodotti e Servizi alla Spina, perché comprende un negozio al piano inferiore dove ci sono i prodotti alimentari e non alla spina, e sopra il negozio uno spazio invece, sì, per diverse attività come lo sportello etico, lo sportello benessere e una sala polivalente, per offrire anche proprio dei servizi alla spina, in quanto è importante cambiare stile di vita, non solo quindi occuparsi di quello che mangiamo, ma anche del nutrimento della mente e di altre cose, quindi anche come investiamo i nostri soldi, che tipo di alimentazione facciamo, sì, che tipo di vacanze facciamo. Quindi l'abbiamo chiamato progetto, sì, proprio perché riguarda sia i prodotti sia che servizi alla spina, perché all'occorrenza. Ma quindi siete già presenti per chi vi sì, conosce a Cesena, e quindi diciamo l'annuncio che avete fatto è per un riallestimento del negozio, oppure sbarcate in un'altra sede? No, sbarchiamo nella stessa sede, sì, al piano di sotto col negozio e al piano di sopra con gli sportelli, i servizi alla spina. Ecco, ma cosa troverà chi entra da voi? di sì. diverso rispetto a un negozio normale. Come ci si muove in un negozio alla spina? In un negozio alla spina ci si muove conoscendo i prodotti, leggendo le etichette e anche la provenienza del prodotto, con la faccia proprio del produttore che letteralmente ci mette la faccia, con i chilometri di distanza da cui, dalla provenienza del prodotto, quindi è possibile reperire molte informazioni sul prodotto stesso. Si possono portare i propri contenitori per riempirli, tipo le bottiglie per riempire sì. il vino, l'acqua e l'olio, o dei propri contenitori da casa, per poter fare la spesa e comprare solo il quantitativo necessario, in quanto ci sono delle stime, il risparmio sta anche nel combattere lo spreco, perché le stime dicono che oltre il 20% della nostra spesa finisce dal carrello direttamente nel bidone della spazzatura, con una buona percentuale di imballaggi. Una famiglia media di 4 persone spende 80 euro per gli imballaggi sui prodotti che da noi vengono assolutamente azzerati, ridotti. Completamente azzerati, quindi si risparmia il portafogli sì. e si risparmia anche in termini ambientali, come diceva giustamente sì, lei. Sono dei costi occulti che non vengono subito considerati nella spesa, quello dello spreco e della riduzione degli imballaggi, ma sono molto importanti e già all'estero hanno già una loro importanza, in quanto ci sono anche delle associazioni che protestano contro inutili imballaggi, quindi si cerca in questo modo anche di fare pressioni sulla grande distribuzione, in modo che anche già alla fonte il prodotto ci arrivi con imballaggio ridotto o perlomeno sostenibile, perché poi sono dei costi anche per la collettività lo smaltimento degli imballaggi, certo. quindi ritorna tutto. Se tendiamo e complessivamente consideriamo tutto, ecco che il risparmio aumenta considerevolmente. Ecco, ma lei come ama pensare a questa attività che la vede protagonista in prima persona? Come un ritorno al passato oppure un modo nuovo di essere moderni? Noi, anzi, perché siamo un gruppo di soci, siamo un gruppo di 8 soci fondatori e di oltre 25 soci sostenitori sovventori, perché questo è un progetto proprio del territorio che è finanziato dalla gente comune che abita a Cesena e dintorni. Noi pensiamo che sia un ritorno al buon senso, quindi anche un ritorno al passato con la tecnologia però moderna, attuale, quindi con una rivisitazione e diciamo così un approccio molto moderno, perché comunque i prodotti alla spina hanno una tecnologia sofisticata, in quanto il consumatore, comunque la persona viene, pesa il proprio prodotto, la propria tara, lo riempie e paga soltanto il contenuto di quello che acquista. Quindi direi che di passato se ne può parlare in termini di buon senso, di ripresa di antiche tradizioni, anche di qualità di prodotto, e di futuro, in quanto c'è la tecnologia, c'è un approccio a un sistema tecnologico che fa risparmiare, come i dispenser, come le pompe pneumatiche idrauliche che elargiscono, erogano il vino, l'acqua e l'olio. Quindi insomma prendere il meglio del passato, ma naturalmente guardando al futuro. Per chi volesse venirvi a trovare, do l'indirizzo via Cavalcavia, se è corretto, 82/90, in centro a Cesena, è così? Quasi in centro, molto vicino alla stazione, alla Secante, esattamente. E allora, cari cittadini di Cesena e della Romagna tutta, recatevi a fare un'esperienza diversa d'acquisto in questo negozio. Qual è il nome? Borgo Etico? Borgo Etico, prodotti e servizi alla spina, in quanto appunto oltre ai prodotti avremo proprio dei consulenti, dei professionisti legati al mondo della sostenibilità, che quindi promuovono nuovi stili di vita, che possono offrire anche le loro consulenze, diciamo così, proprio anche alla spina. Benissimo. Si può fare, si può fare, si può bere o lasciare, si può fare, si può fare, partire, ritornare, puoi tradire, conquistare, puoi dire, puoi negare, puoi giocare, lavorare, odiare, puoi amare, si può fare, si può fare, puoi vendere o lasciare, puoi volere, puoi lottare, fermarti, rinunciare, si può fare, si può fare, puoi prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Come è andata a finire? Avevamo lasciato i nostri amici di Reggio Emilia alle prese con l'annuncio dell'amministrazione provinciale della chiusura, dello spegnimento dell'inceneritore, un percorso verso i rifiuti zero, però spesso, siccome la politica lo sappiamo, agli annunci non seguono azioni concrete, e allora ci chiediamo e chiediamo all'assessore provinciale all'ambiente Mirko Tutino come è andata a finire? È andata a finire bene. Il 10 maggio del 2012 abbiamo spento l'inceneritore a Reggio Emilia, abbiamo avviato tutte le politiche che erano state annunciate come possibile alternativa. Adesso lei ci spiegherà esattamente tutto il percorso, perché questa cosa dello spegnimento dell'inceneritore, che voi avete fatto effettivamente, adesso tra l'altro state diventando anche un modello in Emilia Romagna e non solo, è la fine di un percorso lungo, ma è anche l'inizio di un percorso altrettanto lungo. Ci sono altre tappe che lei mi diceva proprio in questi mesi avete affrontato, per esempio la raccolta porta a porta. Sì, perché l'alternativa all'inceneritore è quello di andare a costruire delle soluzioni che consentano di non mandare un territorio in emergenza rifiuti, quindi non ci siamo limitati a dire che non andava bene l'inceneritore, abbiamo detto costruiamo delle alternative. Le alternative sono fatte da delle scelte, da dei comportamenti e da delle soluzioni impiantistiche. Per le scelte abbiamo pensato a un piano per raggiungere 270.000 cittadini col sistema di porta a porta. I primi comuni ad aver attivato questo piano hanno iniziato nell'estate del 2012, nei mesi di luglio e agosto del 2012 il comune di Poviglio in particolare è passato dal 49 all'87% di raccolta. Accidenti, quasi un raddoppio. Quasi un raddoppio, e questo indica che i cittadini del nostro territorio, avendo la possibilità di portare la raccolta differenziata in maniera capillare in strada per carta, vetro e plastica e direttamente a domicilio, quindi col porta a porta del residuo e dell'organico, hanno reagito bene, hanno risposto bene, perché anche la qualità dei materiali è una qualità elevata e mandiamo a recupero più dell'80% del rifiuto che viene recuperato, che viene raccolto. Quindi questi sono dati sicuramente significativi che ci dicono che c'è una buona risposta al progetto che abbiamo lanciato all'inizio del 2012. Tra l'altro, appunto, voi nel frattempo state diventando un po' anche un punto di riferimento per l'intera regione, forse, e anche non solo, magari, no? Con questo sistema, con questa idea di portare praticamente a rifiuti zero la vostra provincia, perché che percentuale di rifiuti voi non riuscirete a trattare in nessun modo e quindi andranno conferiti per una combustione? Ma attualmente, cioè nel 2011, abbiamo chiuso con il 60% di raccolta differenziata e il 40% quindi da inviare a smaltimento. Con le soluzioni che sono state adottate verrebbe trasformato in combustibile solido secondario, che poi può andare a sostituire fonti fossili, quindi non va ad aggiungere inceneritori ma va in forni già esistenti, ridurremo a solo il 5% la quantità da inviare a smaltimento. Questo è un risultato che consente invece di investire anche per la frazione residua, cioè anche per quel pezzo che non si riesce a raccogliere in maniera indifferenziata, su ulteriori tecnologie di recupero. Quindi ipotizziamo un impianto che recuperi materia anche dal rifiuto residuo, non solo da quello raccolto in maniera differenziata. E infatti lei mi diceva che proprio su questo vi siete inventati la fabbrica dei materiali, coinvolgendo anche un consulente che viene da Monza, per fare che cosa? Sì, la scuola agraria di Monza ha vinto un bando di livello nazionale che abbiamo lanciato per acquisire competenze per far sì che l'impianto di trattamento meccanico biologico a massimo recupero di materia, che già era previsto nel piano lanciato all'inizio di quest'anno, venisse ulteriormente ottimizzato con l'obiettivo di recuperare ulteriore materiale da rifiuto residuo sporco, e in quest'ottica si trasforma quindi da TMB in vera e propria fabbrica dei materiali. È una scommessa, il nostro sistema reggerebbe sul piano strutturale, quindi per non andare in emergenza, anche senza quest'ulteriore ottimizzazione, ma la vogliamo sperimentare, la vogliamo costruire per far sì di poter avere davvero un modello di riferimento regionale o nazionale. Basti pensare che se tutte le province dell'Emilia-Romagna adottassero il nostro piano, già oggi si potrebbe pensare in 3 anni di ridurre gli inceneritori da 8 a 3. E insomma, bene, grazie, ottime notizie. Insomma, rifiuti zero si può fare. Questo è il messaggio che arriva e che arrivava da Reggio Emilia, che adesso l'assessore Mirko Tutino ci ha confermato. Noi vi seguiremo, veremo a vedere quando con questi progetti davvero sarete quasi a rifiuti zero. Grazie intanto per queste belle notizie. Grazie a lei. Ebbene, anche per oggi, per questa puntata è tutto. Vi ricordo che potete venirci a trovare sulla pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24. Io ringrazio Franco Piantanida per l'aiuto in redazione, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Fabio Cantadori che era in regia. Ci risentiamo sabato prossimo. Buona domenica. Un metodo per ridurre i tempi della giustizia del 50% e i costi della giustizia del 20%. Spendere solamente 40 euro prima di andare in tribunale e aprire un tentativo di mediazione. Mi chiamo Chinello Alessandro. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto.